sitting posture is comfortable. Quindi assicuratevi che la vostra postura sia comoda. Ideally, your knees should be below your hips, so the spine has a natural curvature. Idealmente le ginocchia dovrebbero essere più in basso delle anche, in modo che la spina dorsale abbia una curvatura naturale. And if you're sitting on a chair, unless you have a back problem, to sit on the edge of the chair forward so you can put energy in the spine. Se sedete su una sedia, a meno che non abbiate problemi di schiena, sedetevi in punta al sedile in maniera da mettere energia nella schiena. Just lifting the energy up the spine through the top of the head. Quindi solleviamo l'energia su per la spina dorsale fino in punta alla testa. Gianni, orologio, orologio, little clock. Ah, grazie. Spend a moment relaxing off that spine. Dedicate un momento a rilassare la colonna vertebrale. The energy up the spine, everything else relaxed. Ah, ok. Quindi l'energia sale per la colonna vertebrale, tutto il resto è rilassato. So, relax the brow. Rilassate la fronte. Eyes gently closed. Gli occhi sono chiusi, ma non stretti. Jaw relaxed, lips together, teeth apart. La mandibola rilassata, le labbra sono unite, i denti sono staccati. Shoulders. Le spalle. If there's still tension there, give them a good squeeze. Se c'è ancora tensione nelle spalle, strizzatele, contraetele. And your hands on your lap, whatever is comfortable. Le mani sono in grembo o in qualsiasi altra posizione che sia comoda. Acknowledge that posture. Riconoscete quella postura. The energy running up the spine, everything else relaxed. L'energia sale lungo la colonna vertebrale, tutto il resto è rilassato. If during the sitting the body begins to slump, just make the intention intending to lift, lifting, lifting. Se durante la seduta il corpo comincia ad afflosciarsi, enunciate la vostra intenzione. Intendo sollevarmi, mi sollevo. If the body becomes tense, then make the intention to relax. Se il corpo diventa teso, esprimete l'intenzione di rilassarlo. Drawing the attention now to the gentle sensations caused by the breath. E ora attiriamo l'attenzione sulle dolci sensazioni provocate dal respiro. In the body, the abdomen, the stomach or the chest, wherever you feel it most. Nel corpo, nel petto, nell'addome. Lì nel punto in cui lo sentite di più il respiro. Feeling the gentle sensations, we make a simple note, rising, falling. sentendo queste dolci sensazioni, facciamo una semplice annotazione. Si solleva e poi ricade. Abbassare. Si abbassa. Si abbassa. The note should be at the same time as the rising and falling. E questa nota va fatta contemporaneamente, mentre il petto si alza o si abbassa. Don't say it before, that will give you the impression of controlling the breath. Perché se la esprimete prima, vi dà l'impressione di essere voi a controllare il respiro. Resting the attention on the gentle sensations caused by the breath. Poniamo l'attenzione riposa sulle dolci sensazioni causate dal respiro. Rising, falling. Si alza, si abbassa. If the mind is wandering, as soon as you wake up, recognize and acknowledge what the mind is doing. Se la mente divaga, non appena vi risvegliate, riconoscete quello che sta facendo. Thinking, thinking, worrying, worrying. Pensando, pensando, preoccupandosi, preoccupazione, preoccupazione. And then bring the attention gently back to the breath. E riportate con dolcezza l'attenzione sul respiro. Make an intention, a determination to stay there. Esprimete l'intenzione, la determinazione di rimanere col respiro. Feeling sleepy or tired, keep lifting the spine. mi sento sonnolento, sento stanchezza. The spine. Lift the spine. Ah, sollevo la colonna vertebrale. Mm. You can open the eyes as well, wide open. Potete anche aprire gli occhi, spalancarli. But keep the attention inward. Ma mantenete l'attenzione all'interno. Resting the attention on the gentle sensations caused by the breath. L'attenzione riposa sulle dolci sensazioni causate dal respiro. Allowing them to bring silence to the mind. Permettete a queste sensazioni di portare il silenzio alla mente. Calmness to the heart. Calma nel cuore. Stillness to the body. Immobilità al corpo. Rising, falling. Si alza, si abbassa. If the mind is wandering, as soon as you wake up, you must recognize and acknowledge what is drawing the mind away. Se la mente divaga, non appena vi risvegliate, riconoscete e siate consapevoli di che cosa sta facendo la mente. Planning, and irritation. Sto progettando, sto facendo progetti, irritazione. And then draw the attention back to the breath, determined to stay there. E poi riportate l'attenzione al respiro, determinati a rimanere sul respiro. Feeling sleepy or tired, make that effort, lift the spine, open the eyes. Se mi sento sonnolento, se provo stanchezza, porto l'energia lungo la spina dorsale, apro gli occhi. You can even stand up and do this exercise. Potete anche alzarvi in piedi e fare questo esercizio. Hopefully now we feel a bit more focused, a bit more centered. Auspicabilmente adesso ci sentiamo un po' più focalizzati, un po' più centrati. See if we can get a little closer to the breath. Vedete se riuscite ad avvicinarvi ancora un po' al respiro. To catch the very beginning of the in-breath, stay with it to the very end. The very beginning of the out-breath, stay with it to the very end. Vedete se riuscite a cogliere il vero e proprio inizio dell'inspirazione e a rimanerci insieme fino alla fine. Cogliere l'inizio dell'espirazione e rimanere fino alla fine con l'espirazione. If when you do this you find yourself getting tense, se nel farlo vi scoprite tesi, sit back within yourself and, as it were, receive the information. Tornate dentro voi stessi e in un certo senso ricevete questa informazione. Rising, falling. Si alza, si abbassa. When we feel calm and focused to some extent, we can open up to whatever draws our attention. Quando abbiamo raggiunto una certa misura di calma e di concentrazione, possiamo aprirci a qualsiasi cosa attiri la nostra attenzione. If it's a sound, we're not interested in what causes the sound, but the quality of the sound right there in the ear. Se è un suono, non ci interessa cos'è che lo causa, ma la qualità del suono, che la qualità che il suono ha proprio lì nell'orecchio. If there's a sensation in the body, pleasant or unpleasant, if it draws our attention, we go there, we feel it, we experience it intimately. Se è una sensazione corporea, se attira sia piacevole o spiacevole, quando attira la nostra attenzione noi entriamo nel corpo e andiamo proprio in quel punto, la sentiamo intimamente. If it's a feeling in the body caused by an emotion or mental state. Se è un sentimento causato da un'emozione, da uno stato mentale. If it draws our attention, we go there, we feel it, we experience it intimately. Se attira la nostra attenzione, andiamo proprio lì, lo sentiamo e ne facciamo esperienza intimamente. But if the mind moves, we always come off the mind and back into the body. Ma se è la mente che si muove, noi lasciamo la mente sempre, ogni volta, e torniamo nel corpo. So if I find myself thinking about something that worries me, quindi se mi scopro a pensare a qualcosa che mi preoccupa, I come back into the body to see if I can feel the anxiety. Torno nel corpo e vedo se riesco a sentire questa ansia. If I can't feel it, then I come back to the breath. Se non riesco a sentirla, torno al respiro. The breath is our anchor, our reference point. Il respiro è la nostra ancora, il nostro punto di riferimento. We come back to it, for instance, when we're lost. Ci torniamo, per esempio, quando siamo perduti. We're not trying to search for anything or look for anything. Non stiamo cercando di trovare qualcosa o non stiamo neanche cercando qualcosa. We're just investigating whatever draws our attention within that field of awareness. Semplicemente indaghiamo qualsiasi cosa attiri la nostra attenzione all'interno del campo della consapevolezza. Don't do anything. Non fate nulla. Don't try and change anything. Non cercate di cambiare nulla. Beginning with the breath. A cominciare dal respiro. becoming more aware of how we are reacting to what we are experiencing. Diventiamo più consapevoli a come reagiamo a ciò di cui facciamo esperienza. When something is pleasant, we move towards it, we want to maintain it, we want to develop it. Quando qualcosa è piacevole, ci muoviamo verso di esso, vogliamo mantenerlo, vogliamo svilupparlo. When something is unpleasant, we want to push it away, get rid of it. Quando qualcosa è spiacevole, vogliamo spingerlo via, sbarazzarcene. This sort of desire, the Buddha says, is the cause of our suffering. Questo tipo di desiderio, dice il Buddha, è la causa della sofferenza. Is it true? È vero? Becoming more aware of how everything is in process. Diventando più consapevoli di come tutto è un processo. Everything is changing. Tutto cambia. Although we have similar thoughts, they're never the same. Anche se i nostri pensieri si assomigliano, non sono mai proprio gli stessi. Similar emotions, but they're never the same. Le emozioni sono simili, ma mai le stesse. Similar breath, but they're never the same. Respiri simili, ma non sono mai gli stessi. Actually, everything is arising and passing away radically. In realtà, tutto sorge e se ne va radicalmente. Nothing remains. Niente rimane. Is there anything that's reliable? c'è qualcosa che è affidabile?